migrano gli uccelli in volo verso un sole che dà più calore. Il tempo di una breve estate se ne va. Nubi minacciose e nere oscurando il nostro sole, poi deserta una spiaggia al mare senza noi. Momento di nostalgia, anche un poco di malinconia senza te. Un fiume dopo il temporale porta sempre la sua acqua al mare, che il sole nella nube in viaggio trasformò. Resto ad ascoltare il mare e sentire ancora il suo respiro. Un gabbiano smette di volare e viene qui. Come il vento tutto spazza via, un momento di malinconia se ne va. Restare qualche volta solo, un pensiero prende sempre il volo per portarmi sempre più vicino lì da te, via da qui. Cercare la mia estate al sole, quando noi eravamo soli, si fermava il nostro tempo a dirci sempre sì, restiamo qui. Per l'amore, il sole di una nuova estate tornerà. Giochi di colori e luci, il ritorno degli occhi suoi fermeranno il nostro tempo ancora, e poi sarà. Momento fatto di poesia, ritornato come per magia qui con te. Restare un'altra volta insieme per andare sempre uniti in volo, nuovi soli sempre più vicini insieme a te, restando qui. Fermare il nostro tempo e il sole, per tuo cuore che non sono soli, andare in alto e dirsi ancora sempre sì, noi siamo qui. Un momento fatto di poesia, ritornato come per magia qui con te. e con te, con te.